Se sposarsi è facile, rimanere sposati è un successo. Tant'è vero che è di moda convivere per non rischiare un divorzio, ma non si evita un errore facendone un altro. Piuttosto che convivere per evitare in seguito un divorzio, è più saggio riflettere su alcuni principi che tengono saldo un matrimonio. Tra tanti principi se ne possono scegliere 10 che sono in grado di cementare un rapporto di coppia. 1. Il primo principio importante per una coppia è ricordarsi che l'infedeltà uccide un matrimonio. Quando Gesù disse che l'uomo non deve separare ciò che Dio ha unito, non emise un ordine per un capriccio o a discapito della felicità della coppia, ma perché il tradimento non è mai una ragione valida per risolvere i problemi all'interno della coppia. Anche se l'infedeltà non porta automaticamente al divorzio, essa comunque incrina irreparabilmente un rapporto d'amore. Il coniuge tradito può perdonare, ma l'adulterio rimane un fatto incancellabile. Non è saggio perciò sposarsi e pensare che se eventualmente le cose non vanno bene, comunque si può sempre trovare un amante. 2. Un altro principio importante per una coppia è ricordarsi che sposarsi non è la soluzione di tutti i nostri problemi. La maggioranza delle persone si sposa avendo nel cuore il segreto proposito di trovare nell'unione matrimoniale la soluzione ai propri desideri insoddisfatti e l'appagamento al proprio smodato desiderio di affetto e di attenzioni. Proprio perché questo è il nostro segreto obiettivo, se non realizziamo i nostri sogni ci sentiamo tristi e delusi, o perfino traditi. Ma il matrimonio è duraturo solo se si impara che quando ci si sposa il più grande obiettivo non deve essere quello di essere felici, ma di far felice l'altro. È il nostro egoismo e il desiderio di valorizzare il nostro io che ci porta ad avere dei risentimenti. Mentre se il vero obiettivo è quello di far sentire il nostro coniuge realizzato e amato, non avremo tempo di compiangere noi stessi e scopriremo che amandosi è amati. In questo modo si avvera ciò che dice la scrittura, che chi annaffia sarà annaffiato. E se nonostante tutto non si è amati, l'amore comunque appaga chi lo esercita, come una madre che si cura del neonato ed è soddisfatta quando lo vede sereno, felice e appagato. 3. Un terzo principio importante da ricordare per gli sposi è che un matrimonio duraturo non è casuale. Molti si aspettano dal matrimonio ciò che si aspettano dal cielo, che cada la pioggia quando c'è bisogno. Nel matrimonio le cose non funzionano così. Se si vuole un matrimonio duraturo, è necessario metterci tutto l'impegno possibile perché i doni dell'amore non sono gratuiti come la pioggia. Perciò gli sposi devono essere sensibili l'uno con l'altro, devono essere premurosi e intuire le necessità del proprio partner. Un matrimonio per sua natura non può essere statico, o migliora o peggiora. Un matrimonio è duraturo quando gli sposi sanno che un legame intenso e vitale non è casuale, ma dipende da loro e fanno tutto il possibile perché non si spenga il rapporto d'amore. 4. Un quarto principio importante per gli sposi è che un matrimonio duraturo subisce dei cambiamenti. Un errore fatale è ritenere che il periodo dell'innamoramento sia il non plus ultra di una relazione. Anche il ritenere il fidanzamento il più bel momento della vita fa parte di uno dei sentimenti segreti dimoranti nel nostro cuore. E noi vorremmo che fosse sempre così, ma in questo mondo ciò che rimane immobile è morto. Tutto è in movimento, perché tutto ha vita. Così, due sposi maturi saranno preparati e flessibili ai cambiamenti all'interno del matrimonio, come l'entrata di figli, situazioni economiche, o un cambiamento improvviso del partner, in modo che i rapporti coniugali siano sempre arricchiti di nuove realtà. 5. Un quinto principio importante è che l'amore in un matrimonio non muore molto facilmente. Proprio perché oggi i divorzi sono in aumento, proprio perché coppie che si pensava non si sarebbero mai separate, sono invece incappate in un divorzio, accade spesso che ci si sposi con un segreto o evidente terrore di non riuscire a rimanere sposati con il proprio partner, finché morte non ci separi, ma l'amore e i sani obiettivi non muoiono facilmente. Anzi, il vero amore viene alimentato proprio da quelle situazioni negative che indurrebbero alcuni sposi a separarsi e le coppie consapevoli di questa realtà cementano con le difficoltà il matrimonio, facendone così un'unione duratura. Ciò che deve fare paura in un matrimonio non sono le difficoltà che sorgono e alle quali noi non siamo ovviamente preparati, ma è l'indifferenza. Come dice la parola di Dio, i legami del vero amore sono più forti della morte. 6. Un sesto principio importante è che occorre accettare, più che capire. Ciò che sconvolge gli sposi il più delle volte è trovarsi dopo le nozze, di fronte a uno sconosciuto che si pensava di conoscere. Gli sposi più deboli e immaturi pensano subito alla separazione, altri addirittura tornano dal viaggio di nozze già separati, ma queste reazioni non fanno altro che dimostrare con quanta immaturità ci si sposa. Sposarsi significa far coabitare due personalità, diverse anche se complementari. Ma il primo impatto nel matrimonio non lo si vede come una complementarietà, piuttosto una rivalità. Così la cosa più saggia non è quella di cercare di capire certi comportamenti e parole del proprio partner, ma accettarli. Una volta accettati, si è in grado di riflettere con molta più serenità. Se in seguito si giungerà a comprendere il coniuge, tanto meglio, perché si sarà in grado di avere sani colloqui. Diversamente, le cose continueranno così, senza che questo turbi più di tanto. Molto probabilmente il verbo accettare è il verbo che nel matrimonio mette a posto più cose di tanti altri. Ho conosciuto spose travagliate e angosciate, ritornare a vivere e a sorridere una volta accettata la situazione, e mariti crucciati, trovare nuovi stimoli per vivere più pienamente. Accettare vale molto di più che comprendere. Parola di uno che nella vita ha sempre cercato di dare una spiegazione a tutto. 7. Un settimo principio importante per gli sposi è che il vero amore non si aspetta la ricompensa o di essere riconosciuto. È naturale per ognuno di noi aspettarsi un qualsiasi tipo di salario, perché in fondo la vita funziona così. Se vado a scuola e sono bravo, mi aspetto un riconoscimento. Se lavoro ho il diritto della paga. Se ho delle qualità e le metto in mostra, mi aspetto degli applausi. Ma non è così con il vero amore. Il vero amore è a senso unico, anche se l'amore umano richiede l'equilibrio tra il dare e l'avere. E il punto è proprio questo. Quando ci si sposa, si è spinti quasi totalmente dall'amore umano e perciò si dà, ma si aspetta anche di ricevere. Ma poiché il matrimonio è la scuola più severa che esista, il Dio che ha istituito il matrimonio forgia gli sposi perché imparino a esercitare l'amore divino, cioè quell'amore che dona sempre senza aspettarsi la ricompensa o il riconoscimento. Pochi sposi arrivano al termine della loro vita promossi in questa materia, sarò io uno di quelli? 8. Un ottavo principio importante è interrogarsi su come migliorare il proprio matrimonio. Tra i miti dell'amore ci è quello che vuole il partner in totale sintonia con i nostri pensieri e sogni più intimi. Ma non vi è niente di più falso. L'idea che il nostro partner sappia leggere i nostri pensieri e comprendere il nostro cuore nasce da un romanticismo nutrito durante il fidanzamento. Ma una coppia di sposi che vuole un matrimonio duraturo sa che deve divorziare dai sogni irrealizzabili e impegnarsi a esprimere i sentimenti più profondi. Questo comporta volontà, impegno e coraggio, ma non si può ottenere nulla se nulla si fa. Così, il miglior modo per migliorare il matrimonio è migliorare se stessi, aprirsi e portare pazienza. Sta scritto che con la pazienza si persuade un principe, Proverbi 25.15, e se non ci stanchiamo di fare del bene raccoglieremo a suo tempo. Galati 6.9, a suo tempo, e non al nostro. 9. Un nono principio importante è trovare il lato positivo in ogni situazione. Questo non significa chiudere gli occhi di fronte alla realtà, ma piuttosto il contrario. Quando si è presa coscienza di un problema che a volte può essere anche irrisolvibile, la reazione più saggia non è disperare o lamentarsi, ma cercare una soluzione perché il negativo si trasformi in positivo. Se ho progettato che domani vado a fare una passeggiata e piove, sarà l'occasione buona per leggere un libro o compiere cose che da tempo non riesco a fare. Così è del matrimonio. Se a me piace il mare e mia moglie vuole assolutamente andare in montagna, sarà l'occasione per me per fare delle passeggiate, anche se non sono di mio gradimento. Del resto, nella vita sono molte le cose che si fanno controvoglia. 10. Un decimo ed ultimo principio importante per avere un matrimonio duraturo è l'essere sempre riconoscenti. Questo aspetto indispensabile del matrimonio può esistere solo se prima si sono esercitati gli altri principi. Se io sono stato fedele, se mi sposo per fare felice l'altro e mi impegno, se mi adatto, se accetto e amo senza aspettarmi nulla, se cerco di migliorare il mio rapporto e vedo in ogni cosa il positivo, allora senza nessuna fatica avrò un cuore riconoscente nei confronti del mio coniuge. E un cuore riconoscente non ha nessuna radice velenosa che possa farlo morire. Si danno molti consigli in merito al matrimonio. Si scrivono libri a non finire, si cercano mille soluzioni, ma cercare e mantenere un cuore riconoscente in tutte le situazioni, oltre che rendere piacevole il matrimonio duraturo. Onora Dio. Dicembre 2006. Ellero,